la versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:31 primi 12 secondi qui dagli studi della radio di Milano. Grazie a chi è in ascolto, a chi scarica in podcast, l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per chiedere temi di trasmissione, ospiti, critiche, osservazioni. Io rispondo nella media a tutti, quindi, e sapete che molte delle trasmissioni vengono dalle vostre richieste. Allora, il tema del giorno, per vedere se volete chiamare, all'800240024 e le opinioni come sempre 349-238-6666. Oggi torniamo a occuparci della Grecia. Sapete probabilmente che entro questa sera scade il termine che l'Eurogruppo straordinario di venerdì ha concordato con la Grecia perché la Grecia avanzi delle proposte concrete sulle quali reincardinare un programma concordato, in cambio del quale, sapete, l'Unione Europea venerdì ha accolto l'idea di protrarre per soli 4 mesi il finanziamento straordinario alla Grecia. Sapete che, immagino, questa conclusione venerdì è stata accolta sia in Grecia che sulla stampa internazionale come una, non voglio dire capitolazione, ma comunque con un cedimento molto forte di Tsipras e di Syriza e del ministro Varoufakis di fronte alla realtà, cioè la realtà di una condizione di totale isolamento nell'Unione Europea e nell'euroarea che impediva fin dal primo momento di battere davvero sui punti che hanno costituito la piattaforma elettorale del successo di Syriza, cioè l'abbattimento di valore ulteriore del debito pubblico greco, la conferenza europea per l'abbattimento del debito non solo per la Grecia ma in generale e così via. Sì, è vero, non c'è più citato il Fondo Monetario, ma c'è il Fondo Monetario insieme all'Unione Europea e alla BCE a dover giudicare le proposte che farà il governo greco. I margini, secondo le anticipazioni delle proposte greche e anche le reazioni dure che ci sono state da parte della sinistra di Syriza in questi 2 giorni, fanno intendere che gran parte anche delle promesse elettorali per le spese, il ritorno alle spese pubbliche in Grecia, non ha margine per essere attuato. Le anticipazioni a quest'ora, poiché la lettera non è ancora stata consegnata all'Unione Europea, parlano di un grande impegno della Grecia nella lotta all'evasione fiscale, probabilmente anche una tassa patrimoniale sugli armatori e i ricchi. La somma di queste due cose potrebbe fare, c'è chi dice 5, c'è chi dice 7 miliardi di euro. Però in realtà poi il margine per elevare il salario minimo, per pagare l'elettricità a 300.000 famiglie greche, per riprendere le assunzioni pubbliche, per ripristinare le tredicesime, eccetera, eccetera, eccetera, non ci sarebbe e quindi sarebbe un accordo molto lontano, diciamo così, dalle promesse di Syriza al suo elettorato. Allora, ci sono 2 modi di guardare a questo compromesso realistico, diciamo così. Il primo modo è quello dei partigiani politici, come devo dire, cioè di quelli che hanno un punto di vista teso a sottolineare la capitolazione di Syriza piuttosto che la vittoria del rigore. Questo punto di vista, che ha molti argomenti dalla propria parte, però rischia, a mio modestissimo giudizio, di farci smarrire la prospettiva di fondo di questa questione. Cioè, da una parte è fin troppo facile ironizzare su quanto sia facile prendere i voti promettendo la luna e quanto poi sia complicato portare a casa anche uno spicchio di luna, perché nella realtà si è visto che all'Eurotavolo i più duri, insieme ai tedeschi e a Schäuble, a differenza dei francesi che hanno provato a fare la parte della trattativa con i greci, erano gli stessi altri paesi dell'euroarea che sono stati sottoposti al programma coatto di rientro, cioè gli spagnoli, i portoghesi, irlandesi e così via. L'Italia ha traccheggiato, per così dire, cioè Renzi si è ben guardato dallo sposare sia la linea concreta delle richieste di Syriza sia in realtà il rigetto doppio, ricordate, che c'è stato da parte tedesca. Di fatto i greci sono rimasti isolati. Allora, prima prospettiva, fare sapidi commenti sulla capitolazione greca, però il punto di fondo è un altro, probabilmente, dal mio punto di vista. Prendere tempo, perché questa è l'ennesima volta che succede da quando è scoppiata l'eurocrisi nel 2011, prendere tempo senza affrontare il problema vero di fondo è un difetto connaturato alla politica europea. Galbraith Junior, che amico e collega all'Università di Austin di Varoufakis, quando Varoufakis insegnava in America, pur non pensandola proprio allo stesso modo, lo ha accompagnato all'Eurogruppo venerdì, ha descritto alla stampa internazionale la sua sorpresa vedendo la superficialità, per così dire, e il modo arruffato in cui gli europolitici si comportavano rispetto, sue parole, alla serietà e alla competenza di chi rappresentava a quel tavolo sia il Fondo Monetario sia la Banca Centrale Europea. Ecco, siccome il ragionamento di tutti è questo, Mario Draghi e la BCE regalano all'euroarea, di cui all'autunno dell'anno prossimo, il nuovo programma di acquisti straordinari sui mercati, il QE della BCE, che comincia dal mese di marzo, approfittiamo per l'ennesima volta di questo tempo regalatoci dalla Banca Centrale Europea per non affrontare la questione. Qual è questa questione di fondo? È che questi anni hanno dimostrato che l'euroarea in quanto tale, cioè appartenere alla moneta comune, in realtà non determina automaticamente la convergenza delle economie reali e soprattutto della produttività per quei paesi che hanno una bassa produttività, perché si sono comportati per decenni in maniera tale da avere andamenti della produttività molto più bassi di quelli di altri paesi dell'euroarea. Questa è la condizione della Grecia, certo, ma è anche la condizione dell'Italia, che da questo punto di vista è quella che sta messo peggio, perché ha iniziato a perdere produttività da 20 anni e più. Allora, non vedere questo problema e limitarsi a ridere o piangere a seconda che si tifi pro Siriza o contro Siriza significa non vedere la faccenda nelle sue vere prospettive, e cioè che si sta per l'ennesima volta non affrontando la questione centrale. Questa premessa perché? Perché questa visione, secondo me, è molto precisa e poco partigiana, e che però secondo me ha anche la caratteristica di capire meglio i tanti tra voi in ascolto in Italia, e non solo in Italia, che come si vede nei sondaggi oramai non sono più convinti dell'euro, sono anzi convinti molti di loro che l'euro sia il problema e la soluzione vera sia uscirne e così via. Ecco, in realtà secondo me ha i tanti italiani che la pensano così, è più corretto parlare in questo modo invece che dividerci in partigiani. Ieri ha scritto un editoriale, secondo me molto preciso, straordinario, esattamente con questo spirito, sul Sole 24 Ore, un editorialista del Sole che insegna all'Università di Torino ed è responsabile scientifico dell'Osservatorio del Nord-Ovest, Luca Ricolfi, che è con noi oggi pomeriggio per spiegare molto meglio di quanto possa fare io questo nocciolo del problema che ci sembra non colto nel tavolo del rinvio greco, tanto per non affrontare il vero problema che sta sotto le richieste della Grecia. Buon pomeriggio e grazie a Luca Ricolfi. Buongiorno. Allora, come si spiega il fatto che il vero problema di cui ha parlato lei sembra non essere al centro dell'attenzione dei governi che hanno detto no alla Grecia? Ma credo che si spieghi con i problemi di equilibrio politico e di ricerca di consenso, perché noi siamo abituati a pensare che i politici italiani siano dei cialtroni che rimandano i problemi, però non è che quelli europei siano molto migliori. I politici europei hanno avuto 7-8 anni per affrontare la crisi dell'euro, per adesso è stato fatto pochissimo. La ragione per cui non si affronta è semplicemente che se la si affrontasse si andrebbe incontro a delle tensioni sociali e anche dei conflitti fra stati, conflitti naturalmente politico-economici e non militari, però ci sono interessi divergenti e la politica credo che abbia come primo obiettivo quello di stare in sella, e per stare in sella i conflitti vanno minimizzati. Questo credo sia il motivo per cui i problemi non si affrontano. Ce n'è un altro di motivo forse ancora più fondamentale, e cioè che questo problema che io ho provato a porre con il mio articolo domenica non ha una soluzione facile, forse non ha nemmeno una soluzione se noi ragioniamo tenendo conto di quello che è la politica, di quello che è la società, di quello che è la gente. In ogni caso, chi volesse affrontare questo problema di squilibri fondamentali in Europa avrebbe di fronte un compito estremamente difficile. Quindi, mettendo insieme la difficoltà del compito e l'attaccamento al potere dei politici, viene fuori il non far nulla. Ora, ipotizziamo però che dei politici consapevoli del fatto che una moneta comune tra paesi che hanno produttività divergenti, quindi andamenti del bilancio dei pagamenti divergenti, che non possono correggere con la svalutazione, ipotizziamo per un secondo che questi politici capissero, o avrebbero dovuto capirlo forse in passato, che oltre ai criteri di finanza pubblica, cioè di riduzione del deficit, del rientro a scalare negli anni del debito pubblico secondo il fiscal compact e così via, si sarebbe dovuto assumere, o forse sarebbe oggi il momento di assumere, dei criteri di convergenza, appunto, di produttività, in assenza dei quali magari si riequilibra la bilancia dei pagamenti, ma la si riequilibra semplicemente, come è avvenuto in tutti i paesi eurodeboli, perché si tagliano le importazioni, perché diminuiscono i consumi, e quindi è un finto riequilibrio quello, come devo dire, cioè un riequilibrio di guerra, come devo dire, di autarchia, non di crescita positiva. Allora, è così inipotizzabile, professor Rigolfi, che i criteri di produttività possano pesare nella convergenza, non dico più di quelli di finanza pubblica, anche se secondo me nel nostro paese, nel nostro caso per esempio, conta più il gap di produttività che la sostenibilità del debito pubblico, ma perché questo, se fosse un percorso di convergenza con nuovi criteri rispetto a quelli del fiscal compact aggiuntivi di produttività, dovrebbe essere visto, come lei ci ha appena detto, come una via che produce più conflitti di questi, che in realtà producono il conflitto di chi paga il conto, cioè di chi ha perso il lavoro, di chi non crede più nell'euro perché lo associa a diminuzione del reddito disponibile e a stangate fiscali? Ma il problema a me sembra questo, che la convergenza delle economie non è facile da ottenere, perché richiederebbe per esempio un'armonizzazione delle politiche fiscali e un'armonizzazione delle regole. Pensi quanto è complicato assumere una persona in Italia e quanto è più semplice in altri paesi. Allora, questa armonizzazione delle legislazioni fiscali e non solo fiscali è qualcosa che si può pensare di mettere in pista se c'è un governo europeo legittimato democraticamente, autorevole e che abbia anche il coraggio di fare scelte dolorose, e dolorose in termini nazionali, cioè certi paesi ne verrebbero colpiti più di altri. Ora però i nostri politici nazionali le cosiddette cessioni di sovranità non le vogliono fare, e quindi la convergenza è impossibile già solo per questo motivo. I politici non rinunciano a comandare nei rispettivi paesi e quindi meno che mai si lasciano comandare dall'Europa. C'è poi un altro problema di fondo che secondo me ci sarebbe anche se ci fosse un'autorità europea funzionante, e cioè che i meccanismi di convergenza, se sono non automatici, non dettati dal mercato, come avviene ad esempio con una svalutazione, comportano estenuanti negoziati politici. Sì. Cioè quello che io vedo come molto difficile, come insormontabile, è il fatto che qualsiasi politica si intenda fare per far convergere dei paesi richiede politica, appunto, non mercato, e negoziati, imposizioni, conflitti. Quindi io non so se l'ipereuropeismo di chi dice dobbiamo più Europa, no? C'è questa formula molto retorica, se questo ipereuropeismo funzionerebbe, potremmo anche scoprire che una volta conferiti grandissimi poteri a un governo centrale europeo, questo governo centrale europeo è odiato nella maggior parte dei paesi non riesce ad imporsi. Cioè, quando si rinuncia ai meccanismi di mercato bisogna essere molto consapevoli che ci si mette in un mare di guai. Naturalmente questa riflessione, per la parte solo fatta fino a questo momento, sembra per il realismo che la ispira. Il realismo significa prendere atto del fatto che dopo tanti anni di crisi ancora la politica preferisca prendere tempo piuttosto che affrontare il toro per le corna, sembra l'anticamera di una conclusione pressoché obbligata, e cioè in realtà che non abbia torto chi dice e vabbè, e allora dobbiamo ripristinare l'unica clausola automatica del mercato, cioè riappropriarsi della sovranità monetaria e chiedere procedure concordate per uscire dall'euro, perché così ogni paese avrà un aggiustamento della bilancia dei pagamenti e della valutazione della sua moneta nei cambi internazionali, che sarà il mercato a costruire giorno per giorno valutando le possibilità di migliorare la produttività e di migliorare la bilancia dei pagamenti. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta, 16:48, primi 46 secondi. Stiamo parlando in attesa delle proposte che la Grecia entro questa sera dovrà inviare alla Commissione Europea, alla BCE e, sia pur senza citarlo, ma avendolo accettato, anche al Fondo Monetario Internazionale, le proposte su cui bisogna trattare in questi 4 mesi per proseguire poi con un nuovo programma, quindi di riforme sostenibili, però sulle quali appunto gli altri paesi europei dicono: ragazzi, non scappate, perché tanto non si può fare quello su cui avete vinto le elezioni. E ci eravamo lasciati con una domanda fondamentale al professor Ricolfi, stante che l'analisi è che la politica europea non capisce il problema di fondo. Ha ragione a questo punto che dice che l'unico vero meccanismo di recupero di un giudizio pieno di mercato si possa fare solo riappropriandosi della sovranità monetaria, secondo lei? No, io non penso che sia giusta questa conclusione, anche se partendo dalla mia analisi si potrebbe arrivare a questa conclusione. Quello che penso io è che effettivamente la svalutazione sia un meccanismo che funziona, però dobbiamo anche considerare che noi ormai nell'euro ci siamo, cioè è molto diverso porre il problema 20 anni fa e chiedersi: abbiamo fatto bene in quelle condizioni a andare nell'euro oppure no, oppure porsi il problema: facciamo bene ad uscirne. La risposta può essere diversa nei due casi: possiamo aver fatto male a entrarci, ma questo non significa che facciamo bene a uscirci. Questo è l'errore logico che secondo me fanno i leghisti, grillini, eccetera eccetera. Perché dico che non è detto che la soluzione sia uscire dall'euro? Ma perché ci sono alcune soluzioni che si possono adottare che sono meno drammatiche, meno drastiche. Una prima considerazione, secondo me, fondamentale è questa: che lo squilibrio di bilancia dei pagamenti in parte dipende da squilibri di produttività, ma in parte dipende anche da meccanismi puramente finanziari. Mi riferisco alle bolle speculative. Quando un mercato immobiliare o un mercato finanziario sono drogati e inducono tutti a comprare, quindi a indebitarsi, questo è sufficiente a creare uno squilibrio di bilancia dei pagamenti, anche se non c'è un divario di produttività. Allora, una prima cosa che forse i politici europei potrebbero cominciare a considerare è di evitare le bolle speculative. Questo però confligge con il mantra della politica economica come la conosciamo in questi anni, cioè col quantitative easing. Adesso siamo tutti gasati su questo quantitative easing, ci dimentichiamo che la base della speculazione è proprio questa, le bolle si creano quando il denaro costa poco, quando viene manipolata la moneta, certamente. E quindi noi stiamo manipolando la moneta in maniera da aumentare gli squilibri finanziari e presumibilmente di qui a poco anche gli squilibri di bilancia dei pagamenti. Quindi stiamo facendo esattamente la politica opposta a quella che sarebbe ragionevole fare. Questa è una prima considerazione. Io sono diciamo fra i pochi che pensano che il debito pubblico non sia il problema fondamentale, cioè io tendo a pensare, anche avendo visto i dati dei PIGS negli anni che hanno preceduto la crisi, che il problema più grosso sia il debito privato. E il debito privato è generato dalle bolle speculative, questa è la sostanza, in alcuni paesi dalle bolle immobiliari, in altri da bolle finanziarie. Quindi c'è un enorme problema di debito pubblico, non voglio dire, però fatto 100 il problema di squilibrio della bilancia dei pagamenti, penso che la parte più grossa sia il debito privato. Noi di questo non ce ne occupiamo, siamo ossessionati dai debiti pubblici perché è più facile fare un ragionamento moralistico sui debiti pubblici, cominciare a dire avete sprecato, avete stampato moneta, è molto più difficile invece accusare le famiglie che si sono indebitate sulla casa senza avere i mezzi per farlo. Quindi secondo me una riforma delle banche che magari separi le banche d'affari dalle banche commerciali, io non sono un esperto, ma voglio dire ci saranno, presumo, dei modi per far funzionare le banche in un modo più ragionevole e meno favorevole alla speculazione. Questa è una prima linea. Poi c'è un secondo tipo di ragionamento che si può fare e che metterei in questi termini. Non è detto che si debba uscire dall'euro per determinare dei comportamenti virtuosi, potrebbe essere sufficiente la possibilità di farlo. Io non vedrei male che l'Unione Europea pazientemente ci prendesse un anno, perché i nostri politici sono lenti, ma basterebbero 3 mesi probabilmente, per cambiare i trattati e definire delle regole di uscita dell'euro, delle regole di uscita ordinata dell'euro, certo, che permettano ai paesi che lo vogliono o che di poterlo fare avendo procedure che minimizzano o comunque tengono sotto controllo le conseguenze negative di un'uscita disordinata, esatto, autonoma. Per esempio si potrebbe stabilire delle regole anche di firma dei contratti, certo, in cui c'è l'alternativa nel caso di ritorno alla valuta nazionale, eccetera, eccetera. Questo secondo me anche politicamente darebbe un grande potere alle classi dirigenti nazionali, perché dato che gli europei hanno le idee molto chiare sul fatto che l'euro non lo vogliono mollare, cioè tutti ne parlano male ma nessuno lo vuole mollare, Greci per primi, come la bella Maria, allora stante questo stato d'animo dell'opinione pubblica che non vuole abbandonare l'euro, se ci fosse però il rischio di doverlo abbandonare, una classe dirigente responsabile potrebbe pretendere delle riforme o prendere delle iniziative negli stati nazionali per evitare l'uscita dell'euro, che a quel punto sarebbe una prospettiva realistica, mentre adesso siamo in una situazione di azzardo morale, cioè tutti sanno in tutti i paesi che non si può uscire dall'euro, o perché sono troppo piccoli e quindi costa abbastanza poco salvarli, come la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, oppure perché sono troppo grandi, esatto, come la Spagna, l'Italia e ci aggiungerei anche la Francia, per cui nessuno si può permettere di farli fuori. Quindi questa per esempio è una seconda cosa che si potrebbe fare. Poi ce n'è una terza, se ho ancora un minuto, sì, di tipo costruttivo, ed è una critica degli spread. Questo è un lavoro tra l'altro che come Fondazione David Hume noi stiamo facendo, cioè noi analizzando il rapporto tra lo spread e i fondamentali ci siamo resi conto che i mercati sono dei pessimi giudici, cioè i mercati hanno la tendenza a non accorgersi dei problemi nei periodi tranquilli, per cui pagano gli stessi interessi alla Grecia come alla Germania, pensate a tutto, sì, quello che è successo prima del 2006-2007, per 8 anni. E poi a un certo punto quando si entra in fibrillazione perché c'è qualche problema, creano degli spread così enormi da rendere più probabile il default del paese, certo, di cui si teme il default, classica profezia che si autoadempie. Allora noi stiamo lavorando a un modello che dia una valutazione quotidiana corretta del rischio paese, non agganciata al nervosismo dei mercati. Va bene, professore, noi purtroppo abbiamo finito il tempo, mi auguro solo che il vostro lavoro esca in tempo utile, per così dire. Io spero ai nostri ascoltatori di aver dato un contributo utile a una riflessione che non è a ridere o piangere per questo problema irrisolto della Grecia, che si sta risolvendo solo in un dar tempo, non si sa per far che. A domani.